Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e quasi 8 minuti, buona domenica. Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero. Non ci riposiamo affatto, anzi oggi giochiamo in tanti modi, giocheremo con i nostri nomi e con i nostri cognomi, anzi con i vostri, perché magari anche con il mio, sono curioso, ma il mio è facile, è un cognome, insomma, si capisce da dove arriva. Invece sono tanti cognomi che così è più difficile, dei quali è più difficile capire la provenienza. Parleremo proprio di questo, dei nomi che ci accompagnano tutta la vita e che in qualche modo ce la possono anche cambiare, soprattutto quando abbiamo dei nomi o dei cognomi particolari. Di questo parleremo anche con la vostra partecipazione, perché saremo anche curiosi di conoscervi da questo punto di vista e magari analizzarvi. Lo faremo scientificamente, anche un po' meno, lo faremo anche in modo goliardico nel corso della puntata. Voglio ricordarvi però anche la possibilità più tardi alle 11.45 circa di portarvi a casa i biglietti per la mostra di Manet. Infatti avremo anche oggi Manet in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa i biglietti associando una canzone che vi faccio ascoltare a uno dei quadri dell'artista. Io la sera mi addormento e qualche volta sogno, perché voglio sognare, e nel sogno stringo i pugni, tengo fermo il respiro e sto ad ascoltare. Questa è la canzone che dovrebbe darvi, anzi vi dà sicuramente un'indicazione per rispondere alla domanda: quale opera di Manet si può associare a questa canzone che avete appena ascoltato. Spero che anche che l'abbiate riconosciuta, è una famosa canzone di Ivano Fossati, si intitola I treni a vapore. Il numero per prenotarvi 800 24 00 24. Parliamo di nomi quindi e di cognomi, scrivete i vostri, vediamo un po' che cosa possano significare e come vi accompagnano nel corso della vita. E visto che oggi parliamo di nomi, io ho pensato a questa canzone. L'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro. Scritta per l'intervento militare nel Kosovo nel 1999, questa canzone scritta da Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù. Infatti Liga Giova Pelù era il nome di questo trio, che poi non si è mai più ricomposto, è stato fatto solo per questa canzone. Però le cose purtroppo non è che sono molto cambiate, si sono solo spostati i confini delle guerre, ma che continuano a esserci a quanto pare. Però insomma, mi sembrava giusto partire con questo, perché il mio nome non è più, ha un senso, perché il nome ce lo portiamo dietro tutta la vita e qualcuno cerca anche di cambiarlo perché non ne può proprio, visto che insomma non tutti sono fortunati, e di questo parliamo oggi. Enzo Caffarelli, buona domenica. Buongiorno, buona domenica, grazie dell'invito. Allora, sono ascoltatori e ho subito una notizia. Eccolo, quale? Vai. Che esistono in Italia i portatori del cognome Radio e del cognome 24. Si, ma combinare anche un matrimonio. No, infatti non sarebbe male, devo dire. Certo che avere il cognome Radio un po' ti segna la vita, perché caso non so neanche spiegarlo come, perché potrebbe essere una derivazione di un antico nome germanico, così come invece proprio una serie di trovatelli che sono stati chiamati con i nomi dei minerali, perché ce ne sono almeno una cinquantina di minerali e di elementi chimici che sono diventati cognomi. Invece i numerali si spiegano in un altro modo, alcuni in modo particolare, per esempio il 40, che è il più diffuso di tutti, si spiega con i santi 40 martiri che sono stati scambiati per un singolo santo e quindi è stato dato questo nome. Ecco, tra l'altro le curiosità sono veramente infinite, tant'è vero che tu dirigi la rivista italiana di onomastica, questo significa che c'è molto da dire, oltre di coordinare il laboratorio internazionale di onomastica all'Università di Roma Tor Vergata, poi hai scritto anche tanti volumi, fra i quali anche i cognomi d'Italia. Per questo chiedevo agli ascoltatori di indicarmi i loro cognomi, e noi abbiamo preso spunto invece dall'ultimo tuo saggio, si intitola Dimmi come ti chiami, ti dirò perché, non ti dirò chi sei, che è un'altra cosa, oggi certo, la racconteremo certo, anche, certo. Ma ti dirò perché hai quel cognome lì, appunto, perché? Perché il nome nome e il cognome, perché generalmente una persona può pensare, beh, il mio cognome deriva dai genitori, dai nonni, dagli avi, non lo posso cambiare, quello che è, e il nome è stato scelto dai genitori perché per loro, perché gli piaceva o per ricordare un nonno, un santo. Questo è vero, però alla base c'è tutta la storia dell'onomastica italiana, perché il cognome deriva da una situazione particolare in cui la comunità imponeva per esempio un soprannome, oppure in periodo medievale, soprattutto dal passaggio dall'alto al basso medioevo, diciamo quando esisteva il nome unico, era necessario distinguere gli omonimi. Quindi si aggiungeva o il nome del padre, oppure il mestiere che praticava, oppure la città di provenienza, oppure qualcosa dell'aspetto fisico che colpiva la comunità. Per esempio nel mio caso, ecco, il cognome Caffarelli deriva da Caffaro, che è un nome proprio, un nome arabo, e in arabo kafir vuol dire infedele, quindi era evidentemente in una comunità dove prevalevano gli arabi, l'infedele era il cristiano, cioè quello che si opponeva alla maggioranza. Ecco, quindi bisogna anche curioso poi capire se il nome o cognome nasconde poi magari un lato della personalità o assolutamente no. E di questo parliamo, e quindi vi invito anche a scrivere i vostri cognomi. Ce n'è già uno, guarda Enzo, ti dico intanto, se vuoi cercarlo durante il traffico, Posocco, che è un cognome, probabilmente il nostro ascoltatore non ha idea di dove possa arrivare questo cognome. Posocco, esatto, con la P di Palermo. Il riposo del guerriero. Enzo, ma si può dire che sei un onomasta o me lo sono inventato adesso? No, è così, come no. Onomasta funziona, esiste. Soprattutto non sono un onomanta, cioè di quelli che predicono il futuro. No, quella è un'altra cosa. Oggi la racconteremo anche questo aspetto, che però non ha niente a che fare, perché chiaramente il tuo è un aspetto di ricerca linguistica. Il rapporto, ecco, è lo stesso tra astrologia e astronomia. Ecco. Anzi, forse un po' diverso, perché inizialmente astrologia e astronomia erano la stessa cosa, no? E quindi, sì. Invece in questo caso proprio sono due cose completamente diverse che mai sono state insieme. Ecco, sì. Diciamo. Vuoi sapere qualcosa di Posocco? Di Posocco, sì, certo, siamo curiosi. Allora, è un cognome, come certamente l'ascoltatore saprà, che si trova al confine tra Veneto e Friuli, quindi fra Treviso e Pordenone, e al suo epicentro Vittorio Veneto. E il nome dovrebbe essere originariamente Poso, che è un nome di origine germanica, di cui non è ben chiaro il significato, anche Boso esiste, Boso e Poso, però potrebbe derivare anche da un nome di luogo, una piccola località, Posaco, che si trova nel comune di Caneva, provincia di Pordenone. Ecco, quindi insomma, è curioso, ma non è così. Perché sono dei cognomi invece che sono molto più interessanti, perché ci rivelano qualcosa. Perché, insomma, Enzo ha fatto anche delle sue ricerche costanti, però ne ha fatte anche alcune dedicate, per esempio, al nostro nuovo governo, che è pieno di cognomi anche curiosi, no? Sì, sì, tra l'altro credo che sia il primo governo nel quale ci sono almeno 4-5 ministri il cui cognome non si sa come pronunciare, quindi la prima volta, a parte la ministra dell'integrazione Kienge, nella sua lingua natia naturalmente congolese, o Kiange alla francese, ma poi anche per quanto riguarda gli italiani, non so, c'è il ministro Massimo Brahi, ministro ai beni culturali, bene, verrebbe pronunciarlo Brahi, in realtà questo è un cognome salentino, leccese in particolare, che deriva dal greco bradius, cioè tardo, lento, da cui anche il nome dell'animale, il bradipo, e quindi la pronuncia è senz'altro Brahi, come del resto preferisce lo stesso ministro, l'ho letto nel suo blog. Un altro, per esempio, il ministro D'Alia, che degli affari regionali, che verrebbe da pronunciare Dalia, come il fiore, in realtà nella zona occidentale della Sicilia è proprio Dalia, perché deriva dal nome Alia, che è un comune nel palermitano. Invece nella zona orientale della Sicilia, in Calabria, è senz'altro Dalia, perché è una variante di Elia, quindi figlio di Elia, discendente di Elia. Ecco. Per quanto riguarda Josefa, idem, se sì, lo vuoi sapere. Ecco, sì, che alcuno appunto idem a idem, ecco, uno poi legge idem, che ha tutt'altro senso, no? Ecco. Sì, ma non c'entra nulla con il latino, è una forma, in realtà l'originale è Iden, che poi è cambiato in Idem, e deriva, diciamo, grosso modo dal nome Ida, quindi anche questo da un nome. Ecco, attenzione, perché ci sono tanti cognomi che si pensano legati a qualcosa, invece sono completamente separati da quello che si pensa. Ne parleremo anche nel corso della puntata, e intanto arrivano anche tanti messaggi con i cognomi più disparati, e cercheremo insomma di accontentare, non dico tutti, però cercheremo di accontentare più persone. Allora, noi oggi parliamo di onomastica proprio, quindi è lo studio dei nomi e dei cognomi e quindi tutto questo a che fare con la nostra lingua, ovviamente. Però è vero che c'è chi crede che esista anche la possibilità legata al mondo della Kabbalah o Kabbalah. Un attimo solo, Francesca Dragotto, la nostra glottologa. Ciao Francesca. Ecco, mi trovo. Ecco, sì, vi conoscete chiaramente. Ciao, perché insomma, vi occupate di cose molto simili. Francesca, Kabbalah o Kabbalah? Scusa, sono già nel panico. O Kabbalah? Ah, addirittura, ecco, no. Beh, bisogna vedere le diverse tradizioni, lasciamo parlare l'esperta di Kabbalah e poi ne riparliamo. Va bene, ok. Caterina Colosimo, buona domenica. Ciao Caterina. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, velocemente Caterina, noi chiediamo ai nostri ascoltatori di calcolare il vostro numero legato al nome. Sì. Ecco, quindi legato alla numerologia, in poche parole faremo questa prova. Sì. E voi dovrete farvi una griglia con le lettere A, B, C, D fino ad arrivare alla nona lettera, dico bene? No, tutto l'alfabeto, sì. Da A, B, C, D, E, F, G, H, I, poi si va a capo. Ecco, appunto dicevo fino alla nona lettera e poi si va a capo e si continua così. Lungo, sì. K, L, M, N, O, P, Q, R, poi di nuovo capo, S, T, U, V, V, doppio, X, Y, Z. Ecco, ok, quindi ci vogliono tutte le lettere, dovete fare questo schemino, diciamo così, avrete 9 numeri corrispondenti alle lettere dell'alfabeto. Sì. Ecco. Meglio scrivere sopra queste tre righe i numeri 1, 2, 3 fino al 9. Certo, e poi da lì si comincia a scrivere l'alfabeto. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Questo è l'ordine. Bene, allora, una volta che avete fatto questo schemino, prendete il vostro nome e cognome. Ecco, se qualcuno ha un soprannome, cosa deve fare, Caterina? Deve usare il nome che sente più in sintonia con se stesso. Perché per esempio ci sono tante persone oggi che hanno anche due cognomi, no? Sì. Ecco, allora usare il nome, e anche a volte ci sono più nomi di battesimo, deve usare il nome che appunto sente più in armonia con la sua personalità, sia il nome che il cognome. Ecco, quindi voi prendete le lettere che compongono nome e cognome, quelle che sentite più in armonia, sommate tutto e riducete tutto a un numero solo. Sì, sì. Per esempio, non so, se il totale delle cifre del nome più cognome, ecco. Si fa 33, diciamo, bisogna scomporre il numero, fare 3 più 3. Esatto, arrivare da una cifra da 1 al 9, poi cercheremo di spiegarne il significato. Caterina, ci sentiamo più tardi, grazie. Prego, a dopo, a grazie. Dopo. Tanto che gli ascoltatori fanno un po' questo calcolo. Enzo Caffarelli. Allora, il fatto che si voglia... Allora, normalmente il cognome si prende sempre dal padre, no? Questo è nella regola, però le cose stanno cambiando. Questo fa in modo di... Allora, il cognome ci dà tante indicazioni, non so, la nostra provenienza geografica, per esempio, no? Cioè, ci può dire delle cose, o mi sbaglio? Ecco, il momento in cui noi cambiamo questa regola, quindi il cognome può essere uno dei due cognomi, della madre o del padre, giustamente, cos'è che andiamo però a toccare anche? Bisogna distinguere due possibilità. Sì. Uno che, come si è parlato in alcune proposte di legge, che il ragazzo o la ragazza, quando raggiungono la maggiore età, possa scegliere tra il cognome materno e il cognome paterno. Questo, da psicologo dilettante, direi che non è buono, perché significa fare una specie di referendum familiare in favore del padre o della madre, al di là del cognome che può essere più bello o più brutto. E da onomasta dico che sarebbe un grande pericolo, questo però è solo da onomasta, perché se la scelta poi fosse orientata verso cognomi più semplici da pronunciare, eliminando quelli complessi, quelli imbarazzanti, eccetera, tutta una parte della storia del nostro repertorio verrebbe meno. Naturalmente io, per esempio, non sono favorevole a che si trasmetta il cognome materno anziché quello paterno. Il problema è che non dovrebbe essere così una libera scelta, perché altrimenti verrebbe meno, direi, dal punto di vista dello studioso di onomastica, lo dico. Ecco, sì, infatti la mia domanda era rivolta proprio al vostro mestiere, è proprio questo. Sì, perché se spariscono nomi e cognomi, insomma... Per esempio, molti credono che oggi noi abbiamo un repertorio di nomi, parlo di nomi, non di cognomi, sì, molto inferiore a quello del passato, perché alcuni nomi non si usano più. In realtà non è vero, nel senso che ogni periodo ha i suoi nomi, i nomi vanno di moda, hanno dei cicli parabolici, se poi approfondiamo questo discorso, perché insomma è interessante, è legato poi alla vita di tutti i giorni, di quelli che devono scegliere o hanno scelto da poco il nome per un figlio. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se noi vediamo un periodo alla volta, i nomi sono sempre, costituiscono sempre un repertorio abbastanza ristretto. È chiaro che vedendoli in prospettiva storica, sommandoli tutti, ce ne sono molti di più di quanti non ce ne siano adesso nel XXI secolo. Ecco, infatti è molto divertente il fatto che Enzo Caffarelli riesce a capire in base al nome più o meno la data di nascita, cioè il periodo storico, se avete tot anni, insomma, sì, chiaramente... Naturalmente si tratta di medie, si tratta di maggiorati. Certo, cui... non è usare la sfera di cristallo, semplicemente. Per esempio Stefano è un nome che andava di moda, come dicevi tu, in quali anni? Beh, Stefano, devo dire che è più anziano di quanto non sia tu, certamente. Ma chi te l'ha detto? Tipico, no, dalla fine degli anni 40 ai primi anni 70, anche se poi si è un po' continuato. Direi che negli anni 50 e 60 ha avuto il suo massimo successo. Infatti faccio parte proprio di quella categoria, no? Quindi ci siamo. Tra l'altro c'è anche un fatto che può essere interessante, per qualcuno magari poco piacevole, ma si può stabilire anche, siccome i nomi entrano nel nostro repertorio quasi sempre, tranne quelli dei serial televisivi, del cinema, eccetera, ma in genere entrano dalle classi sociali più elevate, più acculturate, eccetera. Allora, se noi abbiamo, per esempio, faccio conto, un nome Cinzia, una Cinzia degli anni 50 apparterà quasi certamente a una famiglia benestante, colta, eccetera. Una Cinzia degli anni 70-80, perché poi i nomi scendono lungo le classi sociali, apparterà invece a una classe sociale più bassa, senza dare naturalmente nessun giudizio. No, ma è chiaro, però ma è interessante come la moda che si sposta, cioè va verso una fascia meno ambiente, è normale che sia così. Esatto, sono i precursori e poi ci sono quelli che seguono il tutone. È veramente interessante questo aspetto. Dire, di un nome, per esempio il nome Emma. Sì. Il nome Emma oggi è un nome di moda, è un nome importante, è un nome tra i primi cinque in Italia, probabilmente continuerà, forse arriverà addirittura al primo posto, che attualmente è occupato da Sofia, che ha superato da 2 anni Giulia. E poi diventerà però un nome molto diffuso, diventerà il nome delle madri, poi delle nonne, quindi diventerà un nome da vecchia, un nome da persona anziana, verrà messo come un oggetto in soffitta, poi nel momento in cui dalla soffitta passerà alla bottega dell'antiquario, abbiamo l'antiquariato, viene riscoperto e torna ad essere un nome bello. E diventa vintage. Qualcuno potrebbe chiedere, ma tu come le sai queste cose? Perché è già successo, perché Emma tra la fine dell'Ottocento e i primissimi del Novecento è stato un nome di grandissima moda, uno dei primi tre in Italia dopo Maria e Anna. E dopodiché è diventato un nome tipico da nonna, da bisnonna, da prozia ed è stato riscoperto soltanto negli ultimi 15 anni. Ecco, se avete anche delle curiosità, appunto, avete sentito di cose da raccontare, ce ne sono veramente tante, e fatevi sentire attraverso Facebook, la pagina Riposo del Guerriero, oppure il numero per gli SMS 349-238-6666. E tra poco poi chiederò a Francesca Dragotto cos'è la deonomastica, perché ogni volta si inventano delle parole, adesso è il loro mestiere, se non lo facessero guai. Il riposo del guerriero. Arrivano veramente decine e decine di messaggi. Io mi scuso, chiaramente non possiamo leggerli tutti, interpretarli tutti. Qualcuno è particolarmente curioso. Mentre adesso sento Francesco Dragotto, preparo Enzo Caffarelli, perché c'è un messaggio che dice: potete aiutarmi a capire da dove proviene il mio cognome? Sono l'unico in Italia a chiamarmi come cognome Valcasser o Valcasser, io adesso l'accento non c'è e quindi non so come pronunciarlo. È scritto Enzo, hai capito? Sì. Perfetto, allora Valcasser o Valcasser, mentre Enzo cerca un po' di fare le sue ricerche. Francesca Dragotto, cos'è la deonomastica? Sì, riprendo il discorso che avevo volutamente lasciato in sospeso prima sull'accento di Kabbalah, Kabbalah o Kabbalah, e la questione è sempre quella del rapporto con lingue diverse dalla nostra. Nell'italiano dell'uso l'accentuazione riconosciuta, normata, è Kabbalah, e l'ambiguità nasce dal fatto che nella trascrizione, nel passaggio dal sillabario, perché l'ebraico è una lingua che si scrive con caratteri non alfabetici ma con sillabe, sull'ultima A è riportato un accento e questo ha indotto a una pronuncia anche Kabbalah. Ritornando invece alla dionomastica, devo dire che prima di tutto, almeno per quanto riguarda il guerriero, la dionomastica è un qualcosa che per me ha un profondo valore affettivo e anche simbolico, perché nel 2008 la prima volta che divenni guerriera fu proprio per parlare di dionomastica, e da lì il nostro percorso è continuato. È la branca speculare a quella di cui si occupa Enzo Caffarelli, perché Enzo Caffarelli, che è un onomastico, scherzando lo chiamo onomastico perché mastica onomastica tutto il giorno, quindi è un onomasticomane, se vogliamo riprendere i temi della mania della scorsa puntata, l'onomastica si occupa di come un nome comune possa diventare nome proprio, invece la deonomastica si occupa del processo speculare, quindi di come nomi propri diventino lingua comune. Ecco, un esempio? Tanti, tantissimi. Dal mondo classico il tallone d'Achille, che poi dà luogo a quel simpatico malapropismo che è il tallone da killer, per chi non riesce a riconoscere la presenza del peli di Achille sotto appunto il tallone di Achille, il filo di Arianna, Bacco in espressioni come essere devoto di Bacco, essere seguace di Bacco, che indica appunto i forti bevitori di vino, Cassandra in essere una Cassandra, Cicerone sia in essere un cicerone per riferirsi a qualcuno che ha fortissima eloquenza, ma anche fare il cicerone, che nell'italiano dell'uso indica chi fa la guida turistica, chi accompagna i viaggiatori. Sì. Ecco, sono tantissime. Ce ne sono chiaramente veramente tantissime, anche voi mano a mano saprete riconoscere. Grazie Francesco, ci sentiamo poi più tardi, anche perché ci sono molte cose da raccontare. Adriano Cotella, buona domenica. Pronto, buongiorno Stefano, buona domenica. Allora, qualche anno fa, siccome i nomi sono curiosi, e voi avete pensato di fare una cosa, che cosa? Abbiamo creato un sito internet interamente dedicato ai nomi, a tutto quello che riguarda i nomi, il significato dei nomi, l'onomastico, i nomi più strani e divertenti, i nomi per i cani, i gatti. Questo sito si chiama nomix.it, è nato nel 2001, appunto dalla somma di due passioni, una per internet e una per i nomi. Ecco, ma questa passione per i nomi da cosa è nata? Da una discussione tra amici una sera mentre bevate una birra, o perché proprio... Sì, all'inizio è andata proprio così, parlando con amici e appunto pensando a come all'arte, diciamo, di dare i nomi, sia dare i nomi ai prodotti, ai marchi, che anche ai bambini, ai gatti, appunto questa cosa chiamata naming, diciamo, nel marketing, che poteva essere portata anche a un livello più basso, più comune, diciamo, appunto per dare nome ai bambini e quindi a tutti i genitori che stanno cercando un nome per il proprio nascituro. Ecco, il sito è molto molto ricco, è nomi italiani, nomi per bambini, nomi stranieri, si gioca con i nomi in tanti modi diversi, i nomi divertenti, le curiosità, ci sono veramente tanti modi per giocare con i nomi, e alla fine siete riusciti a monetizzare quest'idea, quindi, cioè il sito vi porta qualcosa da questo punto di vista? È nato nel 2001 come una passione che piano piano si è trasformata in un vero e proprio lavoro, sia per me che per la mia compagna. Ecco, quindi sono contento perché avete avuto un'idea che ha funzionato. Io ho preso alcuni nomi curiosi dal vostro sito, anzi invito gli amici e gli ascoltatori ad andare a visitarlo, che è nomix con la x.it, perché c'è la parte più curiosa, si può anche votare, e sono i nomi che avete scovato dalla rubrica del telefono, perché c'è la gente che ha dei nomi assolutamente strani, diciamo così, tipo lasagna emiliana, c'è uno che si chiama Emiliana di nome e lasagna di cognome. Adesso io leggo quelli leggibili perché alcuni non so. Sì, alcuni sono forse vietati ai minori, però sì, bisogna ricordare che sono comunque nomi e cognomi esistenti, quindi queste persone devono comunque pronunciarli questi nomi. È vero anche che io forse lo cambierei. Ecco, vabbè, perché sì, molti probabilmente nel tempo, come il famoso Felice Mastronzo, poi ha cambiato tutto il nome. Ecco, c'è una persona che si chiama Remo Mori e si legge Moriremo, ecco, esatto. Oppure una Domenica e D'Agosto è il cognome, ecco. Oppure abbiamo anche Sforza Italia, oppure anche ci sono due bambine di nome Perla, che è anche un bel nome, solo che abbinato al cognome, una si chiama Perla Pace. sì, ancora bene, l'altra si chiama Perla Madonna, che sembra quasi un... Certo, e invece direi che non è così. Però io ne so, anche i genitori non mettono insieme, adesso poi questa è una domanda che farò ovviamente al nostro ospite, ma io devo dire che quello che più mi incuriosisce e che voterei, visto che si può anche votare, è qualcuno che si chiama Bondi di cognome, che è un cognome normale, Bondi, ma il nome è James, quindi fa James Bondi, quindi come ti chiami e dirà James Bondi e fa ridere, perché me lo immagino, non so, sì, un po' appesantito. C'è un intento, diciamo, da parte dei genitori di creare un nome simile a un personaggio famoso, però poi certo, il risultato è ridicolo. Sì, anche magari di rovinarti un po' la vita da un certo punto di vista. Grazie davvero e complimenti Adriano per la vostra idea. Nomix.it è il sito. Buona domenica, grazie Adriano. Grazie, ciao. A voi. Enzo Caffarelli. Senti, ma quando i genitori danno i nomi ai figli, ma pensano anche al cognome oppure secondo te in quel momento sono distratti? Non lo so, no, perché ci sono nomi e cognomi che sono veramente illeggibili. Ecco, io sì, credo che quando vengono fuori delle accoppiate come quelle che sono state lette, chiamiamole vincenti, va? Peggio al fondo, chiaramente voluto, ma gli altri sono... Anch'io ho una lista pubblicata, il professor Remo Bracchi, sulla mia rivista di onomastica appena uscita, un elenco di... mi pare che siano 400 combinazioni, alcune vere come Felice Evacuo Felice, che era un calciatore in attività, giocato anche nella Lazio, e altri invece che sono stati combinati volutamente, ma sono incredibili, per esempio Assetato Bevi l'Acqua, oppure Colomba Falovo. Ecco, ma tu dici, cioè nel senso che c'è del dolo da parte dei genitori a creare il nome apposta? In Italia comunque sono rari. Io credo che la situazione peggiore è all'estero, perché noi abbiamo dei nomi incredibili, soprattutto poi questi finiscono sui giornali, quindi sono gli attori, cantanti, personaggi comunque noti che danno dei nomi strani ai figli, ma anche persone normali. Per esempio c'era un calciatore cinese che ha messo al figlio il nome, il segno della chiocciola e basta, fatto lì sono abituati agli ideogrammi, quindi si disse di questo povero bambino, insomma, che sarebbe stato fortunato già se avesse potuto superare il filtro anti-spam venendo al mondo. E poi c'è un caso in Nuova Zelanda molto interessante di una ragazza, una bambina, che era stata chiamata Talula Does the Lula from the Hawaii, cioè Talula balla la Lula dalle Hawaii, insomma, dopo tutta una situazione giudiziaria eccetera è stata tolta la patria potestà ai genitori, quindi insomma qualcuno reagisce, per fortuna. Ecco, perché hai studiato anche questo, perché il nome alla fine ci accompagna tutta la vita, ci può segnare da questo punto di vista. Sì, io quello che racconto anche in questo mio libro, dimmi come ti chiami, ti dirò perché, è che per esempio ci sono dei nomi legati al mondo dello spettacolo, così, che in effetti poi dopo il momento di moda, dopo quei 5 minuti di celebrità, fanno ridere. E poi questi nomi spesso sono anche, c'è stata una ricerca in Germania, un'altra in America recentemente, dove è dimostrato che questi nomi sono associati a persone violente, a ragazzi che non studiano, eccetera, eccetera. In realtà non è il nome che determina un certo atteggiamento, un comportamento, è il fatto che questi nomi sono dati in particolare in quegli ambiti, gente povera, deprivata culturalmente, che non ha soldi, che vive in quartieri violenti, eccetera, per cui poi è chiaro che persone che non studiano oppure vengono coinvolte in fatti, diciamo, criminali, ecco. Non c'è una relazione tra il nome e il comportamento. Sì, sì, è chiaro, ma il nome arriva da qualcosa, ecco, cioè non è scritta nel nome, diciamo così. No, ecco, assolutamente no. Però è chiaro che poi una persona invece che porta un nome o un cognome imbarazzante non lo vuole cambiare e si trova in difficoltà. Io ricordo proprio all'inizio del mio libro l'incontro con una persona che si chiamava Colla Bolletta. E naturalmente questa soffriva molto di questa persona per un cognome così complesso, insomma, pesante, e poi io le spiegai che Colla in realtà è il femminile di Colle, e veniva usato nell'italiano antico, e che bolletta vuol dire bolla, piccola polla d'acqua, quindi è un colle con una sorgente d'acqua. E direi che insomma è stata contenta. Ecco, non vi dico, ve lo diremo dopo il significato del cognome del nostro ministro Saccomanni, perché quello non so quanto possa far ridere, tra virgolette, il significato del cognome. Lo posso dire subito? Lo dirò subito, se vuoi. Sì, no, deriva dal antico tedesco, Sackmann, cioè uomo sacco, inizialmente veniva utilizzato diciamo per un facchino, per persone che trasportavano i sacchi, ma poi mano a mano si è trasformato in quello che oggi diremo saccheggiatore. Ecco, quindi. Che per un ministro delle finanze chiaramente, diciamo, non c'è un nome, però, destino. Un pochino sì. Senti, prima di dare la linea al traffico, ti volevo chiedere il significato di Valcassero, Valcassero appunto. Guarda, bisognerebbe conoscere bene la distribuzione di questo, perlomeno dove si trova l'ascoltatore. Io credo comunque, voglio dire questo, sembrerebbe il nome di un abitante di una valle, sì. Però non saprei quale perché non esiste una Valcassa o qualcosa sì. del genere. Però volevo approfittare per dire che certe volte esiste nel tempo una trasformazione tale, soprattutto delle consonanti, per cui in realtà potrebbe essere una nuova etimologizzazione di un nome che in realtà non c'entrava niente. Ti faccio un esempio, Val di Serri, che sembra anch'esso un nome di una valle, in realtà è una corruzione di Baldassarre. Oppure Pizza Balla, nome tra l'altro di un famoso portiere degli anni 60 di calcio, beh, deriva da Parsifal. Quindi le trasformazioni sono tali che soltanto una ricerca molto accurata, molto specifica su documenti antichi, ammesso che siano disponibili, permette di ricostruire dal punto di vista del significato. Ecco, infatti anche i cognomi Alfano e Letta pare che abbiano qualcosa in comune, però non lo diciamo subito. No. Sembrano molto distanti, ma in realtà, pensate, non è così. Il riposo del guerriero. Ci spostiamo dall'onomastica, che studia appunto seriamente da dove derivano nomi e cognomi, per giocare invece con la numerologia, per chi ci crede ha anche un senso ovviamente, e il senso cabalistico che lega ogni lettera dell'alfabeto a un numero. La somma di questi numeri è ridotta a una cifra sola, da 1 ai 9, poi in realtà c'è anche l'11 e il 22, ma non ci addentriamo in queste cose, Caterina Colosimo, sennò diventa complicato. No. Allora, ridotta a una cifra sola... potrebbe rappresentare il destino, diciamo così, legato al vostro nome e cognome. Chi ha totalizzato uno, Caterina? Dunque, non rappresenta il destino, ci no, mancherebbe scusami, altro, ma... poco. Diciamo un po' che la cifra che si ottiene sì? dalla composizione del proprio nome e cognome, però anche dalla propria data di nascita, perché è verissimo che siamo segnati diciamo dal nostro nome e cognome, però anche dalla data di nascita, cioè questa stessa operazione appunto si può fare anche per la data di nascita. È anche più semplice perché sono già numeri quelli, quindi. Prego? È anche più semplice perché sono già numeri. Tra l'altro, non dobbiamo neppure fare un minimo di calcolo, se non quello di ricavare il numero più basso, diciamo, ecco, dall'1 al 9. E, insomma, diciamo che non è che la numerologia è vero, che tra l'altro adesso non è nemmeno più neanche considerata un gioco, ma fa parte di queste scienze antiche, come possono essere anche l'astrologia, anzi la numerologia è stretta parente dell'astrologia, entrambe sono nate, diciamo, anzi l'astrologia forse un attimo prima, però diciamo che possono essere abbinate, così come l'astrologia dà l'impronta, quando noi diciamo una persona è nata sotto il segno dei gemelli, per dire, sì. Possiamo anche collegarla al numero 3, perché il gemelli è il terzo segno dello zodiaco, anche quello per esempio è un numero che caratterizza la nostra personalità, è solo una nota, no? Così come quando siamo nati il sole era in gemelli, così, che è il terzo segno dello zodiaco, così noi possiamo dire che nella nostra personalità c'è una nota gemellare che si accompagna al numero 3. Ecco, i calcoli per quanto riguarda la numerologia possono essere veramente infiniti, di conseguenza io tendo a semplificare, perché è inutile che ci addentriamo. Ma dobbiamo semplificare, certo, in questo momento per forza di cose, poi chi volesse approfondire può anche, ci sono molti libri. No, ma oltretutto a semplificare perché certe credenze dell'antichità, sì. anche la tradizione cabalistica, così, si riferisce a testi, a tradizioni religiose, oggi intanto di difficile comprensione, poi anche difficile risalire all'origine proprio di queste tradizioni. Per cui io direi che la vera scienza antica che è molto attuale oggi è l'astrologia, e che possiamo procedere insieme con l'astrologia e la numerologia, e trovando nel caso che ci siano delle differenze, perché per esempio, se torniamo all'esempio dei gemelli, se il mio numero è 3, il mio numero astrologico è il 3, e il mio numero che ho detratto dal nome e cognome è il 2, ecco, posso giocare tra il 2 e il 3 e vedere quale impronta alla mia personalità hanno dato questi due numeri, che possiamo anche considerare un po' i numeri, diciamo, dato che si cercano sempre i numeri della fortuna, i numeri della nostra, ai quali attribuiamo una certa fortuna, il numero che ci è stato dato nel momento, dal punto di vista astrologico, nel momento in cui siamo venuti al mondo, e poi successivamente il nome e cognome che ci viene dato, diciamo, magari a volte i bambini ricevono il nome e cognome giusto un giorno o due dopo dalla nascita, questo succede. Ecco, e di conseguenza possiamo poi abbinare i due numeri, quelli dell'astrologia, tre, il numero che ci viene, quello della data di nascita e quello del segno. Il numero della data, ecco, di nascita e quello del nome e cognome. Ecco, Caterina, appunto io ti chiedevo di, velocemente, adesso abbiamo dato una descrizione un po' così di come si possono poi abbinare i numeri, a che cosa, sì. Siamo un po' addentrati, ecco, nella sì. discussione, e invece ti chiedevo di dare un senso ai 9 numeri, però adesso devo dire che il tempo è scaduto, tra virgolette, per questa cosa. Allora ti chiedo di farmi questa cortesia. Il numero è un aggettivo solo dedicato a quel numero. All'uno cosa possiamo abbinare? Che aggettivo possiamo abbinare? All'uno possiamo abbinare questa piccola frase. Io sono, ossia è un numero collegato alla propria personalità, alle persone che amano lavorare da sole e che emergono anche lavorando. Ecco, va bene, io sono, dobbiamo stringere i tempi. Il numero due è il numero della coppia, di conseguenza è collegato appunto a persone che amano lavorare in... Quindi io sono per mezzo degli altri, diciamo, ecco, così, in un certo senso. Il numero tre. Il numero tre è il numero, secondo la tradizione cabalistica, della creazione. Però per noi dobbiamo tenere presente che adesso il numero 3 rappresenta spesso un triangolo, ossia una situazione difficile dal punto di vista sentimentale o familiare. Tenere presente soprattutto questo, perché poi i numeri nel corso dei tempi cambiano, delle interpretazioni diverse. Il numero 4. Il numero 4 è legato alla solidità, ai 4 punti cardinali, a quello, dunque, una persona un molto concreta, quindi. Sì, il numero 5. Il numero 5 invece è a mezzo tra tra la prima cinquina e la seconda cinquina, sì. Di conseguenza appartiene alle persone disinvolte, quelle che sanno guardare avanti e anche indietro nella propria vita, e dunque che non mancano di obiettività. Possiamo e di dire una anche... larghezza di pensiero. Bene, il numero 6. Ecco, il numero 6 è una piccola comunità, dunque rappresenta le persone che amano stare in compagnia, che hanno un piccolo o grande entourage. E che lavorano bene in gruppo. Lavorano bene in gruppo. Il numero 7. Il numero 7 è il numero delle... numero perfetto, come sappiamo, no? Sì. Abbiamo i 7 giorni della settimana, anticamente c'erano i 7 pianeti. Sì. Ecco, è il numero che rappresenta la fine di un ciclo. E dunque appartiene alle persone che sanno porsi delle tappe nella vita e poi andare avanti, continuare. Numero 8. Il numero 8 è il numero dell'infinito, è tracciato... Se lo giriamo, certo, è il simbolo dell'infinito. Ecco, e dunque rappresenta le persone che hanno che hanno degli ampissimi orizzonti davanti a sé, quasi come il 9 in questo senso. Sì. Ecco, perché il 9, tra l'altro, è proprio l'ultimo numero, diciamo, che viene preso in considerazione, a parte, come avevi giustamente sottolineato tu prima, l'11 e il 22, ma quello è un altro discorso. Il 22, sì. Anche il 9, un po' come il 7, rappresenta per le antiche tradizioni il completamento di un ciclo, anzi di 3 cicli, 3, 6 e 9, e dunque delle persone proprio delle persone fattive, costruttive, che sanno mandare avanti la che sanno portare vita. A termine le cose che si sì. sono prefisse. Sì. Grazie Caterina Corosimo, buona domenica. Grazie scusa. E abbiamo pochissimo tempo adesso. Michele Tosi, ciao, buona buongiorno, domenica. Ecco, buongiorno a tutti. Guarda, abbiamo Caterina Corosimo ci ha preso un po' di tempo ho e va bene. Sentito. Allora, Michele Tosi, pubblicitario, lo conoscete perché esiste il brand naming, cioè si danno i nomi ai prodotti quando si parla di pubblicità, sì. ovviamente. Certo. Abbiamo poco tempo, facci solo intanto un esempio, poi ci sentiamo dopo il GR. Ma nomi giusti, nomi sbagliati, clamorosi. Il nome è una cosa che identifica subito l'identità come un bambino, per cui è la cosa più importante per un prodotto, anche se a volte, a dispetto dei nomi o a dispetto della giustezza, si può essere coinvolti in un disastro totale. L'esempio più classico che cui tutti citano è quello dell'automobile Jetta, perché una macchina che si chiama Jetta della Volkswagen o Jetta, che diventa ancora più scaramantico e puntano sì. subito le corna, è l'esempio più classico che è stato fatto, ma più che nome sbagliato è un errore di considerazione dei mercati internazionali. Sì, certo. Tutto lì. Per cui possiamo continuare dopo? Dimmi tu. Sicuramente sì, grazie. Ci sono tanti nomi appunto che non sono veramente sbagliati, ma in un mercato sbagliato creano qualche problema. E c'è un'auto che si chiama MR2, dico bene, della Toyota se non mi sbaglio, esatto. e chiaramente in francese la pronuncia sarebbe Merd, e quindi una persona difficilmente, insomma, si avvicina a una macchina con un nome che ricorda altro. Ne parliamo dopo, nel riposo del guerriero, continuiamo a parlare di nomi e di cognomi. Grazie intanto Michele Tosi. C'è il GR. Back to work 24 per voi. Sono Luigi, ho un'azienda nella meccanica di precisione. Di fronte alle difficoltà del mercato, mi sono convinto della necessità di acquisire competenze manageriali e risorse finanziarie adeguate allo sviluppo. Grazie a Back to Work 24 ho incontrato manager e professionisti con esperienze importanti, pronti a investire per diventare soci nella mia azienda. Vai su radio24.it, entra in Back to Work 24 per voi e mandaci la tua domanda. Caro divano, quanto mi piace la tua comodità, il tuo stile. Ti ho comprato sapendo che potevo anche restituirti, ma non l'ho mai fatto, né mai lo farò. Tra parentesi, sei perfetto per me e per i miei amici. Da Divani e Divani by Natuzzi fino al 19 maggio c'è la formula comodi o rimborsati. Divano parentesi a soli 1090 euro e se non sei soddisfatto ti rimborsiamo il prezzo. Ecco perché la nostra comodità non teme confronti. Divani e Divani by Natuzzi, a misura dei tuoi desideri. Regolamento su divaniedivani.it. Direct Line, un caso di fierezza. Io, Ivo, uomo previdente preventivo, mi impegno a risparmiare sull'assicurazione auto. E con Direct Line ho 2 mesi gratis di polizza. Garanzia infortuni conducente inclusa, lamentele di mia moglie escluse. Tutti si sentono fieri quando scelgono Direct Line, la migliore RC auto per la soddisfazione dei clienti. E su directline.it, fino a 2 mesi gratis di polizza. Fai un preventivo e scopri i dettagli dell'offerta. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo. Per migliorare il vostro equilibrio c'è il Body Balance. Per soddisfare le vostre passioni c'è la Body Art. Per la vostra sicurezza c'è il Bodyguard. Per darvi il massimo benessere durante il sonno c'è Total Body di Flu. Total Body è un sistema di materassi e piumini che favoriscono la circolazione del sangue durante la notte per darvi un benessere mai provato prima. Flu, tutto il bello del benessere. Flu.it. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 533 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Credit Reform è la prima scelta di banche, compagnie d'assicurazione e grandi aziende. 800-425-325 o creditreform.it. Quinto forum di economia e finanza internazionale Advantage. Global Perspectives, Competitiveness and Growth. Economisti internazionali a confronto. 13 maggio, Four Seasons Hotel Milano. Con l'adesione del Presidente della Repubblica. Iscriviti su adfinancial.net. Un evento Advantage Financial. Ciao, sono Giorgio, medico Vidas, e voglio ringraziarvi per averci donato il vostro 5 per 1000, che ci permette di assistere ogni giorno gratuitamente centinaia di malati terminali, nelle loro case e nell'hospice Casa Vidas. Grazie. Senza il vostro aiuto non potremmo farlo. Aiuta Vidas ad aiutare. Puoi cercare nella rete, ma trovi tutto solo su Lavoro 24. Dal Sole 24 Ore, il nuovo servizio online con tutti gli approfondimenti e gli aggiornamenti in tema di diritto del lavoro e amministrazione del personale. Provalo subito su www.lavoro24.ilsole24ore.com. Il segnale orario vi è offerto da Bazzac.it, il momento giusto per fare acquisti online? Certo che sì, Bazzac.it. Il riposo del guerriero. Le 11:06, stiamo cercando di capire l'origine dei nostri nomi e dei cognomi, divertirci anche con questo, perché alcune origini fanno sorridere, alcuni significati fanno sorridere. Adesso vedremo infatti che è davvero così. Vi ricordo alle 11:45 di portarvi a casa i biglietti per la mostra di Manet a Palazzo Ducale a Venezia. Il numero verde è 800 24 00 24. C'è il nostro nomasta e compagno della puntata, Enzo Caffarelli. Ciao ancora, buona domenica. Allora Enzo, ci siamo lasciati chiacchierando di due cognomi che sono Letta e Alfano. Sì, e tu mi hai rivelato una cosa veramente curiosa. Sì, guarda, volevo premettere solo una cosa a proposito di quello che dicevi, cioè che anche i nomi e cognomi più banali possono nascondere delle storie interessantissime. Io sono convinto, è quello che poi ho ribadito nel mio libro, che si potrebbe scrivere un libro intero sul nome e cognome di una singola persona. Io forse lo scriverò su Mario Rossi, perché mi interessa. Dovresti fare dei librettini con tutte le combinazioni, sarebbe infinito il lavoro, in poche parole. Sì, infatti sarebbe fatto solo su commissione. Senti, torniamo ai nostri leader di governo. Allora, Letta dovrebbe essere un nome, intanto è cognome abruzzese, ma di origine lontana germanica, che deriva da Atal, che vuol dire stirpe nobile. Sì. La cosa interessante è che il cognome Alfano, mentre è un cognome tipicamente meridionale, mentre in Campania deriva dal comune di Alfano, in provincia di Salerno, che deriva a sua volta da Alfius, quindi il nome latino, italico addirittura, nel caso siciliano è sicuramente un nome arabo, deriva da, cioè probabilmente un nome arabo che deriva da Alfaris, che vuol dire il cavaliere, che poi è diventato in realtà l'alfiere degli scacchi, eccetera. Ma adesso c'è una teoria seria che potrebbe derivare da Atalfano e quindi da Atal stirpe nobile, cioè Letta e Alfano sarebbero praticamente dei cognomi molto apparentati. E di qui l'idea di un'onomastica delle larghe intese, o di servizio o di scopo, che si aggiunge a quella di cui parlavo prima, che è l'onomastica consolatoria, cioè quella che permette di dire a una persona che ha un cognome ingombrante che ha tutto un altro significato. Per esempio Muoio, esiste il cognome Muoio, che in realtà deriva da Moio, che è un nome, un toponimo, che significa moggio, cioè poggio, cioè un'altura, no? C'è Moio della Civitella in Campania, eccetera. Oppure il cognome Suino, che in realtà deriva da Anzovino, Anzuino, che è anche il nome di un santo. Ecco, niente a che fare quindi con l'animale. No, ecco. No, è come anche Manzoni, Manzini, eccetera, da Mande, che è un nome germanico, Leopardi, deriva Liutpardo, che non ha nulla a che fare con l'animale. E poi tra l'altro ci sono i cognomi mal accentati, di cui nessuno parla, ma che sono molto interessanti, cioè dei cognomi che vengono pronunciati, anche famosissimi, in maniera sbagliata. Ormai la convenzione è quella, il più famoso è Cossiga, che veniva detto Cossiga, in realtà è ma Corsica, addirittura quindi... tu dicevi Quasimodo al posto di Quasimodo. Sì, perché deriva dal latino Quasimodo genet infantes, che è un'antifona di una messa, quella della prima domenica dopo Pasqua, quindi Quasimodo. Oppure Cagliari, che non ha nulla a che fare con la città, perché è un nome di mestiere, cioè i Caligari, i calzolai romani antichi, oppure Cagliari, fabbricanti di caglio, quindi di formaggio. E non Cagliari, appunto, come invece uno potrebbe pensare e dire anche. E Salgari, come Fogar, che è focolare, quindi non è Fogar, come è Sagramola, che in realtà è Sagramola, cioè sacra costruzione, no? C'è chi poi pronuncia, ma questa influenza dell'inglese o del tedesco, ad esempio Benetton, è assurdo, Benetton, cioè Benedettone, o addirittura Furlan, che è il cognome più diffuso a Trieste, che vuol dire Furlan, Friulano, no? Quindi questi accenti sono francamente improponibili. Bice. E quello secondo me più interessante, perché proprio uno non ci pensa, è Baresi. Baresi non ha nulla a che fare con la città di Bari, è un cognome solo della Val Brembana, quindi nel cuore della Lombardia, e deriva da un toponimo probabilmente di origine celtica, che è Baresi, che è stato un comune autonomo fino al 29 e adesso è nel comune di Roncobello. Quindi anche i famosi fratelli Franco e Beppe Baresi, calciatori, dovrebbero essere chiamati Baresi, ma nessuno ovviamente glielo chiede. E no, certo, anche perché ormai... Sì. Ti dico un cognome poi, se vuoi curiosare, Biceri, mettete gli accenti però, perché sennò io non riesco a capire dove posso mettere, perché può essere Biceri, Biceri o Biceri, addirittura quello più improbabile, però chiedono da dove possa derivare un cognome così curioso, intanto che ti lascio pensare. Enzo Caffarelli, Michele Tosi, lo riprendo, eccoci qua, Michele sono Tosi, qua, è il nostro copywriter. Stiamo facendo l'esempio di nomi insomma, che possono essere stati un po' sfortunati o fortunati a seconda delle nazioni dove sono capitati. Ecco. Esatto, sfortuna, distrazione forse dei produttori, visto la globalizzazione della distribuzione dei prodotti. Le cose più clamorose le raccogliamo proprio dalle auto, perché abbiamo la nostra famosa Lancia Dedra, che in Inghilterra, lanciata paro paro con lo stesso nome, suonava come Dead Rat, cioè una pantegana morta praticamente, per cui è stata cambiata velocemente, piuttosto che errori di Nissan o di Mazda, dove hanno lanciato prodotti, cioè modelli che si chiamano Moco, che è il mocio del naso, o la puta, che è la prostituta, certo, addirittura, per non finire in bellezza con un Pajero, famosissima macchina, sì, automobile qua, che significa, ahimè, masturbatore, cioè proprio una cosa abbastanza un po' imbarazzante. Ma l'hanno cambiata? Sì, ma certo. L'hanno cambiata in Montero. Montero. Ecco, lì è cambiato. Ma dopo aver fatto la frittata. Cioè, se ne sono accorti dopo, quindi, quando la gente ha cominciato a ridere guardando la pubblicità. Esatto, esattamente, sì, esattamente. Vabbè, poi si può dire che questi nomi, malgrado il mio lavoro, la professione che mi ha portato anche a crearne alcuni, sì, ci sono dei nomi che sono sbagliati, ma non troppo. Nel senso che, malgrado l'errore, come si può dire, non so, di Perlana, che non fa solo prodotti per la lana, o Mentos, che non fa solo caramelle alla menta, hanno comunque avuto un successo, magari hanno creato qualche difficoltà nella comunicazione per specificare alcuni elementi al di fuori del nome, cioè Perlana anche per la seta, per dire, ma senza cambiare il nome. Finendo, c'è un elenco molto carino, brevissimo, di come ho preso un appunto, di tanta fatica per nulla. Aspetta, cioè, che ti sentiamo maluccio, Michele, scusa, cerca di spostarti, prova, sì, ripeti, provo. Vai. Dicevo che ci sono dei nomi che io ho qualificato con tanta fatica per nulla, cioè a volte dei nomi, al di là della loro inesattezza, pesantezza, sì, diventano comunque dei nomi famosi, come ad esempio l'olio sasso. Uno dice un olio leggero che si chiama sasso, però terribile, si chiama sasso perché poi è un cognome ovviamente, piuttosto che la cosa più clamorosa che ho trovato e simpatica è che il signor Palmier ha chiamato tutta la sua linea di modelli Mercedes, ma non per una ricerca di marketing approfondita, era semplicemente il nome di sua figlia. Della figlia, certo, onore, esatto, alla figlia, devo dire che ha avuto anche successo. Grazie Michele Tosi, ciao. È un piacere, come sempre, buona domenica. Ci sentiamo presto, buona domenica. A te, ecco, c'è chiaramente uno studio, c'è chi fa proprio questo mestiere, si occupa proprio solo di nomi. Beatrice Ferrari, buona domenica. Buona domenica, buongiorno. Ecco, una brand naming expert, una persona esperta proprio di brand naming, cioè che studia tutto quello che si deve sapere per creare un nome, perché è un vero e proprio mestiere, Beatrice. Sì, assolutamente, molto difficile. Adesso non ho seguito tutto quello che avete detto fino adesso, però si è visto già dagli esempi che sono stati fatti che si può incorrere in grosse difficoltà per un nome sbagliato. Quindi io dico sempre, il nome giusto non salva un prodotto sbagliato, però il nome giusto sicuramente può ottimizzare gli investimenti e creare valore sul prodotto o sulla marca. Rende anche più facile la comunicazione. Tutto, la comunicazione, l'esportazione del prodotto, e poi, per non parlare della parte giuridica, se ben registrato il nome, quindi io sono proprietario, posso fare quello che voglio con questo nome senza avere dei problemi con altri che potrebbero avere dei diritti, eccetera. Quindi c'è un metodo abbastanza chiaro da seguire per riuscire almeno a evitare le grosse trappole del naming, ecco. Ecco, tu da 15 anni che ti occupi in particolare proprio di questo. No, da molto di più. Di più da più di 20 anni, ah. dall'84, quindi pensate un po', eh. Ecco, che prima a Parigi, poi a Milano. Che ti sei specializzata proprio in questo settore della pubblicità, no? Ecco. Diciamo sì, io l'ho scoperto e mi sono infilata dentro con grande passione. Ecco, e da dove parti quando devi costruire il nome per un prodotto? Qual è la prima cosa che ti fai raccontare? Mi faccio raccontare il prodotto, e quello di cui non parto è il prodotto stesso, perché il grosso sbaglio è sempre più facile capire con gli sbagli sul naming. Il grosso sbaglio è per dire: io ho un cioccolatino, devo lanciare un nuovo cioccolatino, guardo il cioccolatino e dico che nome gli do. È assolutamente sbagliato, perché partendo dal prodotto io farò dei nomi che somigliano a tutti i nomi che sono già sul mercato: Cioco Bon, Cioco Più, Cioco Cri, Cioco Lì. Sì, qualcosa col cioco dentro. Ecco. Senti, ma esatto. Quante volte ti trovi a doverti scontrare con il cliente? Perché il cliente, se trova un nome, adesso hai fatto un esempio del cioccolato, no? E spesso il cliente vuole che ci sia la parola cioccolato all'interno del nome, no? E è una richiesta, e ci si scontra, no? Da questo punto di vista, o mi sbaglio? Beh, io mi scontro poco, perché basta che dica quattro cose e gli dico ma anche questo esempio con cioccolato, sì. Si capisce subito che diventa il nome banale. Certo. Per fare un nome come Baccio, che non è un nome banale, e si lavora sui concetti di posizionamento del prodotto. Sì. Che cosa voglio comunicare con questo prodotto, che mood, che spirito gli voglio dare, e a quel punto sì, posso cominciare a fare dei nomi, ma non partendo dal prodotto stesso. No, credo che di solito, almeno i miei clienti sono molto curiosi e molto voglioso di imparare come fare bene le cose, se no non mi chiamerebbero. Ecco, questa cosa è cambiata nel corso del tempo? Cioè, in passato invece si era più legati a associare il nome al contenuto, oppure è sempre stato così? O adesso c'è più attenzione anche a voler cambiare? Sì, c'è più attenzione. È tutto un po' legato. Uno, perché i manuali dicevano che si doveva legare il nome al prodotto ed era sbagliato. E poi perché per il problema legale, sempre, se io faccio un nome con Cioco, ne avrò già 10.000 e saranno già registrati. Quindi per poter dare una personalità maggiore al mio prodotto, avere un nome unico che sia il mio e vendere solo il mio prodotto e non la categoria, è meglio fare un nome come Bacio, sicuramente, per un cioccolatino. Sei stata molto chiara, sicuramente, infatti, un nome di grande successo, oltre che prodotto così. Grazie davvero. Dimmi, scusami. No, dicevo, anche un'agenzia che deve comunicare Bacio e un'altra Chocobon, sicuramente più motivata a comunicare Bacio, perché può raccontare indubbiamente proprio una storia. Guarda, Michele Tosi su questo ha molto da raccontarti, molte campagne infatti sono state fatte da lui. Grazie Beatrice Ferrari, buona domenica. Io voglio ricordare il sito di Beatrice Ferrari, che è beatriceferrari.com, se avete qualche curiosità anche per gli interventi che lei fa anche in università, insomma, per raccontare il suo mestiere. Il riposo del guerriero. Enzo Caffarelli, abbiamo nominato Mercedes. Puoi dirci qualcosa di questo nome? Sì, beh, Mercedes è un nome che viene dalla Spagna, naturalmente. Vabbè, dire, quindi alla Mercè, pietà, quindi è un nome mariano, la Madonna della Pietà, praticamente. Ecco, e Biceri invece hai scoperto qualcosa di questo cognome? È sicuramente un cognome complesso, anche qui ci vuole tutta una ricerca, perché la V e la B spesso si cambiano, quindi ho visto anche se fosse Biceri, eccetera, dipende quante C ha, dipende se è IE o soltanto E, potrebbe essere l'abitante di un vico, potrebbe essere se si trova in una certa zona, perché è fondamentale poi sapere da dove viene il cognome, una variante di aero che diventa aereo, per esempio Ferrari, che in Piemonte diventa Ferrero, Ferreri, quindi è complesso. Volevo citare tre cognomi che ho scoperto, che ho trovato, che sono veramente, secondo me, incredibili. Uno è Innominato e non è ispirato dai Promessi Sposi. Ah. Un altro è Sopprimere. Pensate alla povera gente, per fortuna sono pochi che prendono questo nome. Non era una richiesta di far fuori queste persone, ma era evidentemente una parte della catena onomastica in cui il documento diceva eliminare questo certo elemento, e invece è rimasto proprio Sopprimere da solo. E un altro bellissimo, perché è un avverbio superlativo e quindi rarissimo, è Assolutissimamente, che si trova a Ostuni e altrove in Puglia, raro anche questo, che è anche il nostro cognome più lungo tra quelli formati da una sola parola. Incredibile, Assolutissimamente, come che cognome è Assolutissimamente? No, ho capito, ma che cognome è? Si potrebbe andare avanti all'infinito. Una ascoltatrice scrive: mi chiamo Lorena Ficosecco, da piccola mi vergognavo ma ora non più. Sapete dirmi il significato? Arriva proprio da fico secco, cioè quello che sentiamo, o è tutt'altra cosa? No, in questo caso è un cognome trasparente, cioè è quello. E quindi e lì ci fermiamo, quindi è facile. Brava a non vergognarti, però capisco che non sia stato stato facile a scuola. Io avevo un amico che si chiamava Nando di nome e Patti di cognome, quindi noi ogni volta bussavamo alla porta del Laura chiedendo se potesse uscire pattinando, ovviamente. Questo faceva ridere, ma non la supplente che ogni volta si trovava a questa richiesta non sapeva rispondere. Roberta Ravello, buona domenica. Buona domenica a tutti voi. Uno scrittore fantasma ha scritto il libro dei nomi per gli amici animali, perché bisogna dare anche agli animali dei nomi. E ce ne sono tantissimi, sono stati chiaramente cercati, trovati. Roberta, da dove partiamo quando diamo il nome all'animale? Da cosa? Di solito da dove si parte? Secondo me dalle nostre ispirazioni, perché rispetto a dare il nome a un bambino che si è un po' vincolato, perché magari si ha paura anche del giudizio degli altri, quando si dà il nome a un animale si libera completamente la creatività. E quindi spesso il nome però tradisce quello che noi avremmo voluto fare nella vita, quello che noi vorremmo che l'animale facesse. Ad esempio, io nella vita mi occupo di dare in adozione i cavalli, diciamo, come lavoro, e molto spesso i cavalli che provengono dagli ippodromi hanno nomi che lasciano tradire che, insomma, il desiderio del proprietario è quello di vincere, no? Per cui abbiamo, non so, dei cavalli che si chiamano Largo Passo Io, non è bellissimo, oppure Olympic, Marte, Castore Gas, sono nomi fulminanti, ecco, nomi tipici di cavalli da corsa. Con gli animali ci si può sbizzarrire, no? Alla sì. Fine, con i nomi. Ci sono dei nomi che tu non sopporti assolutamente, che magari si danno spesso agli animali? Allora, ci sono dei nomi che noi abbiamo visto, insomma, che queste attività sono difficili. Ad esempio, abbiamo adesso una cavalla in adozione che si chiama Zomba e le cambiamo nome, cioè quando mettiamo la pelle, eccetera, non la chiamiamo Zomba perché è già tornata indietro, cioè, tra l'altro, due volte questa cavalla. È un nome che porta sfortuna, abbiamo pensato. Insomma, e qui sì, quando noi scegliamo, ad esempio, il nome di un animale da dare in adozione, cerchiamo di dare un nome che possa essere carino, che possa piacere e che possa far pensare che ci sia un futuro per quell'animale, non so, Fortunello, Hope, cioè Speranza, che sono cavalli, sì, salvati dal macello, piacciono. Ecco, io, Roberta Ravello, sto parlando di cavalli in particolare, ma insomma poi gli animali... Sì, nel libro in realtà i nomi, molti li ho presi noi abbiamo dato in adozione 300 cavalli, dai cavalli, però sono nomi che si possono dare a qualsiasi animale, la tartaruga, il cane, il gatto... Esattamente, perché lei è fondatrice e presidente di una onlus che si chiama Horse Angels, ovvero angeli dei cavalli, e loro proprio cercano persone disponibili a tenere, ad accudire i cavalli che altrimenti non andrebbero neanche al macello, tra l'altro, quei cavalli lì, vero? Sono cavalli che... Purtroppo sì, perché non sono destinati a quello. Hanno un DPA, insomma, per i proprietari, mantenerli sarebbe troppo oneroso, quindi spesso, non so, vanno nei paesi dell'est, vengono lì macellati e poi reimportati come ragù. Ho capito, quindi insomma avremo una fine assolutamente diversa da quella che potrebbero avere, quindi loro si occupano di questo. Se volete, il sito è www.horse come cavallo trattino angels come angeli.it per saperne spero di più. Spero che il branding sia stato giusto per l'associazione, visto che parlate di branding. Ebbene, insomma, certo, beh, insomma, i cavalli dovrebbe essere attinente. Diciamo, assolutamente sì, insomma, ci capiamo perfettamente. Grazie Roberto Ravello, vi ricordo il libro dei nomi per gli amici animali. Buona domenica, grazie. Voi. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, volevo sentire Claudio Bacilieri, che risaluto. Ciao Claudio. Ciao. Dico risaluto perché abbiamo sentito qualche settimana fa, perché sì, è autore del libro sì. I borghi più belli d'Italia, perché anche i borghi italiani, le città italiane hanno dei nomi molto curiosi che arrivano, certo, da qualcosa. Ci fai qualche esempio? A proposito di nomi, io adesso mi trovo a Vipiteno, dove avevo celebrato la 13ª Assemblea Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia. Sì. Sono davanti alla Torre del 400 e vedo lo stemma della città. Nello stemma era raffigurato un pellegrino un po' messo male. E questo pellegrino in tedesco si chiama Sterz, da cui Sterzing, che è appunto il nome della città in tedesco. Ecco, quindi c'è però un'altra ipotesi che collega il nome alla presenza di una zecca romana, sì, in cui si coniavano sesterzi. Ecco, quindi ci sono anche, non c'è mai, poi ecco, poi spesso è così, che ci sono diverse ipotesi, si capisce mai bene quale. Alla fine uno abbraccia quella che ama di più. Qualche altro paese curioso, Claudio, che hai trovato, che hai scovato? Beh, per esempio Morimondo. Sì. Morimondo è un borgo nel Parco del Ticino, vicino a Milano. Una bellissima abbazia. Dove vecchia abbazia che è stata fondata dai monaci cistercensi che provenivano dalla Borgogna, da Morimond. Il nome ovviamente significa mori mundo, cioè morire al mondo, no? Perché con la vita claustrale ci si allontanava dal mondo. Sì. Ecco, poi non so, abbiamo tantissimi toponimi che derivano dal celtico, dall'etrusco. Ecco, per esempio, un altro bellissimo borgo in Toscana, Sovana, deriva dall'etrusco Suf, terra verde. Oppure Bevagna in Umbria da un gentilizio etrusco Mefana. Un nome bellissimo secondo me è ce ne abbiamo due, Montefiore. Sì. Allora innanzitutto Montefiore Conca, che è un nome naturalistico e metamorfotico, no? Composto da cinque sillabe, Montefiore Conca, quindi legato al luogo, il monte dei fiori. Sì, che facile. Nelle Marche abbiamo un Montefiore dell'Aso. La cosa curiosa è che ovviamente anche qui Mons Floris, qui monte di Flora, la Dea Flora, e la Valle dell'Aso è ancora famosa per la produzione di frutta, quindi la Dea Flora era la Dea dell'Abbondanza, no? E quindi ancora il toponimo riflette questa... Certo, curioso come non sì. Voglia dire dei fiori ma della Dea, e quindi di tutto della il verde Flora, alla sì, fine, sì, certo. Sì. E quindi è molto più ampio il significato. Grazie, insomma, Claudio Bacilieri, di borghi e di piccoli posti da vedere straordinari in Italia. Ce ne sono, sì. Per cui ci risentiremo presto. Grazie. Va bene, arrivederci. Ciao, Enzo Caffarelli. Allora, siamo quasi alla fine, insomma, di questo momento dedicato ai nomi, ma non del riposo del guerriero. E ci sono ancora cognomi, tu dicevi, di donne italiane che sposano invece stranieri, cosa succede? No, volevo dire questo, no. di in generale, sì. Delle donne quando si sposano, ogni cultura, ogni legge, ogni paese ha naturalmente una tradizione differente. Per noi è abbastanza normale vedere oggi che le donne acquistano anche il cognome del marito, ma mantengono tutta la propria identità. E succede invece, nelle ricerche che ho svolto per il mio libro, ho trovato una cosa che mi è sembrata veramente incredibile, perché stiamo parlando non di un paese lontanissimo per cultura, storia e tradizione, ma di un paese abbastanza vicino come l'Ungheria. Ebbene, in Ungheria esiste una modalità principale che accade quando una donna sposa l'uomo, è quello di acquistare il nome e il cognome del marito con un suffisso ne, che vuol dire appartenenza, di, insomma, è come se in Italia Veronica Lario si fosse chiamata Silvio Berlusconi Ne, o come se Ilary Blasi improvvisamente fosse, dopo il matrimonio, fosse divenuta Francesco Totti Ne. Scusa, magari dico una cretinata, non è lo stesso concetto che si usa in Russia, per cui il Gorbaciov, Gorbaciova, non funziona così? No, un'altra cosa diversa. No, lì è diverso, perché in quel caso la donna mantiene il proprio nome. Sì. Aggiunge, e viene aggiunto. Come nome di mezzo tiene il nome del padre. Sì. E poi aggiunge il nome del marito, che diventa femminile solo nel suffisso. Quindi Ivanov diventa Ivanova, no? Sì. Ma quindi mantiene la sua identità, aggiunge una terza, un terzo elemento, come capita per l'Italia, cambiandone però il suffisso. Invece in Ungheria proprio si è stravolto, perché ancora oggi, a parte persone di elevata cultura, eccetera, ancora oggi il 70% delle donne ungherese che si sposano perdono tutta la propria identità onomastica, e acquistano soltanto quella del marito con un suffisso. È come se in Italia una signora che si chiama Ada Bianchi perdesse il suo nome sposando il signor Giovanni Rossi, diventasse appunto Giovanni Rossi Ne. Chiaro, chiarissimo, quindi perde tutto, insomma, la sua storia da questo punto 2013, di vista. Nel 2013 siamo ancora così. Senti, cosa pensi di questa, poi ti lascio, di questa iniziativa di un insegnante che scrive, dice: all'inizio dell'anno scolastico cambio il nome dei miei alunni cinesi con nomi italiani e loro sono molto felici. Guarda, il problema dell'integrazione soprattutto dei bambini, ma insomma degli stranieri in Italia, passa anche per il nome. Io credo che bisognerebbe fare degli studi, io ne ho cominciato alcuni nel mio piccolo, proprio sul significato dei nomi di tutti gli stranieri, nomi e cognomi di tutti gli stranieri, quelli più diffusi naturalmente in Italia. Nella comunità cinese esiste già una tradizione per la quale il bambino viene chiamato con due nomi, un nome cinese in famiglia e un nome italiano fuori, cioè per i rapporti sociali a scuola. Quindi a me sembra un'iniziativa valida e interessante, tra l'altro condivisa sicuramente dalla comunità cinese, ma nello stesso tempo sarebbe molto bello se questi bambini, forse lo faranno, spiegassero, magari con l'aiuto degli adulti naturalmente, perché portano il loro nome cinese, qual è il loro vero nome, che cosa significa. Certo, poi il significato del nome devo dire che è sempre interessante. Adesso oggi abbiamo parlato di cognomi, ma chiaramente poi ci sono anche significati dei nomi. Io vi invito a leggere i saggi che sono stati scritti da Enzo Caffarelli, però a questo punto, siccome le richieste sono tantissime, magari faremo un'altra puntata dedicata proprio ai nomi. E vi ricordo, grazie a te, e vi ricordo l'ultimo dei saggi, si intitola così: dimmi come ti chiami e ti dirò perché. Storie di nomi e di cognomi. Grazie ancora Enzo Caffarelli, buon lavoro, buona grazie domenica. A te, grazie agli ascoltatori. Ciao, c'è la pubblicità, le previsioni del tempo e poi c'è ancora, parliamo di nomi con i nostri giochi, videogiochi, e poi giochiamo invece con Manè, e ci saranno anche le suggestioni del gastronauta. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Per quanto riguarda i videogiochi, oggi abbiamo un ospite d'eccezione, Gianluca Vialli. Ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica a te e a tutti. Allora, parliamo dei signori del football, in italiano, ma in inglese Lords of Football. È un, io non so come definirlo, un manageriale, come possiamo definirlo questo gioco dedicato al mondo del calcio? È difficile, appunto. È una definizione perché è un concetto unico e nuovo, insomma, assolutamente innovativo. Io, per descriverlo velocemente, dico sempre che è un incrocio tra The Sims e Football Manager, nel senso che c'è un po' di lifestyle, è anche un po' un gioco manageriale, c'è della strategia, è in un certo senso un gioco di calcio, semplice da giocare, cioè molto intuitivo, divertente, competitivo, nel quale devi gestire una squadra di calcio assolutamente personalizzata, e quindi devi conoscere i tuoi giocatori, devi imparare a capire pregi e difetti, li devi allenare, e poi la cosa veramente simpatica è che loro hanno una personalità, una vita, per cui dopo l'allenamento loro escono, vanno in giro per la tua città, vanno nei locali, possono cadere in tentazioni. Tu, ecco, li devi controllare, li devi punire, ecco. Insomma, c'è una gestione a 360 gradi. Mi fa molto ridere. Il ruolo del manager è quello. Mi fa molto ridere, Gianluca, questa cosa. Tu stai parlando come se fossero delle persone, no? Lui dice, cioè Gianluca diceva, loro prendono, vanno, escono, finiscono la partita. Lui sta parlando dei personaggi virtuali che verranno creati durante il gioco, perché i giocatori, e come nella realtà, insomma, poi anche la cronaca quotidiana, no? Che si legge, e hanno una vita oltre al calcio, non esistono solo gli allenamenti e la partita, ma una vita propria, fatta di affetti, di amicizie, di situazioni. E tu hai voluto anche fare in modo che si raccontasse questo, perché, lo devo dire, non abbiamo ancora detto, tu hai fatto la consulenza per la creazione di questo titolo. Sì, quando me l'hanno chiesto mi sembrava un'opportunità troppo interessante, sì. Per non dire di sì. Quindi per 4 anni e mezzo ci ho dedicato parte del mio tempo e delle mie energie, mi sono divertito moltissimo. E sì, io ho cercato subito di spiegare che, insomma, se vuoi vincere con la tua squadra, non è soltanto una questione di allenare i giocatori, devi gestire proprio il tutto e per tutto, anche nel loro tempo libero, quello che fanno cioè ora devi gestire le risorse umane. E quindi in questo mondo virtuale, bello, divertente, questi tuoi giocatori escono, vanno la sera, e questo può avere un impatto poi nelle loro prestazioni. Chiaro, perché, e nei risultati della squadra. Certo, una notte brava potrebbe costare il risultato della partita del giorno seguente, no? Giusto. No, me è capitato, sì, tante volte. Immagino. Anche io gioco, no? No, stavo parlando nel gioco. Tra l'altro quando ci gioco io mi sono reso conto che sono molto più bravo nella realtà a fare insomma l'allenatore piuttosto che sì, col videogioco. No, sono bravissimo quando giocano gli altri, io mi metto dietro, dico fai questo, sai, fai quell'altro, e così. E anche perché quando lo gioco sempre con gli occhi di chi ha fatto il consulente, quindi non riesco mai a rilassarmi, guardo questo va bene, questo bisogna migliorare, eccetera. Comunque è così, cioè devi fare le scelte giuste, perché ad ogni scelta c'è una causa, c'è un effetto e poi alla fine non vinci la partita, perché poi alla fine la partita non la gioca il computer, la giochi tu, puoi dare degli input eccetera, e quindi poi devi vincere la partita, poi il campionato, poi la Coppa d'Europa, insomma è in quel senso lì è abbastanza classico, no? Parti dalla Serie B, insomma chiaro, è una scalata al successo da questo punto di vista. Sì. Gianluca, tu sei un videogiocatore in generale o hai cominciato a appassionarti proprio dedicandoti a questo titolo? No, ho giocato, giocavo fino al tempo in cui si giocava ancora con quei giochi arcade, no? Che andavi nel bar o la macchinina, poi dopo vabbè anch'io mi sono evoluto così come sì. Il mondo dei videogiochi, ho giocato anche abbastanza con il gioco di Tiger Woods, del golf di Electronic Arts, e questo però prima di sposarmi. Perché poi dopo che mi sono sposato ho capito che sai, sono uno poi comincia a giocare e non sa mai quando smette, no? Si vanno è vero, però insomma, un po' cambiare le mie abitudini. Due sono le cose, o fai appassionare il mondo dei videogiochi. Ecco, fai appassionare la tua compagna al mondo dei videogiochi, quindi si gioca insieme, oppure insomma bisogna fare delle scelte, o ci si ritaglia un po' di tempo. Hai detto che allo Oslo Football Tour hai quell'occhio lì, anche da chi l'ha creato, un po' l'ha pensato. E appunto ne ha fatto la consulenza e non riesce a staccarti dai difetti, però alla fine siete riusciti a realizzare un ottimo prodotto italiano, lo diciamo subito. E qual è la cosa che più ti ha soddisfatto di questo titolo? Guarda, è stato un parto e doveva durare un paio d'anni e ce l'hanno messo 4 anni e mezzo. Credo che sia stato speso il doppio dei soldi che erano stati inizialmente insomma messi in budget, preventivo, a budget. Però poi io ho cominciato a interessarmi anche delle grafiche, dei loghi, di tutto il discorso, e quindi è stato veramente emozionante. Non mi hanno mai ascoltato, però io ci ho sempre messo le mie idee, le mie opinioni. E come dicevi tu, l'orgoglio di vedere comunque un'azienda di sviluppo di videogiochi italiana, di Savona, che in un momento anche di crisi ha avuto anche fino a 38, 40, 40 persone che ci hanno lavorato. Quindi è stato bello vedere, perché poi mi hanno spiegato che in Italia non è così automatico. No, assolutamente no, infatti è molto interessante che un'azienda italiana, cito anche Milestone per esempio, che è un'altra azienda italiana, insomma sono poche realtà che riescono a fare però prodotti di successo, e questo ci fa soltanto piacere. L'ultimissima cosa, poi ti lascio andare, è questa: lo consiglieresti anche a un giocatore professionista di calcio? Sì, lo consiglierei, ma lo consiglierei anche un ragazzino, perché secondo me è un gioco che ti diverte, che ti insegna a gestire le risorse umane, a gestire un gruppo, a gestire degli individui, e poi affronta questo mondo del calcio in maniera anche abbastanza leggera, traumatizzante, divertente, credo che sia. Allora, il gioco non è perfetto, devo dirti la verità, io da grande critico qualche cosa va ancora migliorata, ma è normale che sia così. È come nelle partite, Gianluca, non si gioca mai al meglio secondo se stessi, no? Quindi è così, è come la vita è fatta di così. E volevo ricordare che è scaricabile, è un gioco per PC ed è scaricabile in questo momento dalle principali piattaforme digitali tipo Steam, Amazon e tutto il resto, quindi lo trovi facilmente e in un attimo ce l'hai sul computer. Allora vi ricordo il sito, certo, il sito è questo: www.lordsoffootball.com. Grazie Gianluca Vialli e complimenti, buona domenica ancora. Grazie Stefano, grazie e saluti a tutti, buona domenica. Le suggestioni del gastronauta. Io mi sono bendato adesso, ho gli occhi chiusi, non vedo niente, sento solo i profumi e gli aromi. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, buongiorno. Oggi ho diversi suggerimenti intriganti. Sì. Innanzitutto cominciamo con una pasta all'uovo che si chiama la Campofilone. Ebbene, i maccheroncini di Campofilone, diciamo, sono uno dei giacimenti gastronomici italiani, questa pasta marchigiana fatta ancora in maniera artigianale. Appunto, la Campofilone non solo fa i maccheroncini di Campofilone, ma ora fa tutta una linea che va appunto dalle pappardelle alle tagliatelle, insomma una serie in cui si può ben attingere a secondo della larghezza della pasta che si vuole, soprattutto tenendo presente che questa pasta si cuoce in 90 secondi più o meno, un minuto e mezzo, e quindi diciamo che nel giro di 3-4 minuti con una buona salsa di pomodoro, magari acquistata e riscaldata, si può avere un piatto fantastico senza ricorrere ai piatti pronti, e credo che sia un grosso vantaggio con i tempi che corrono, mangiare genuino in tempi molto, molto rapidi. Bene, la seconda suggestione riguarda un ristorante di Senigallia, di Mauro Uliassi. Bene, è sul porto, un bellissimo ristorante proprio sul porto, quasi sulla spiaggia, quindi si può dire che si mangia con i piedi nell'acqua, come dico io di solito, e devo dire un ristorante che anche se sulla spiaggia, diciamo con l'acqua a pochissimi metri, si mangiano, si può mangiare anche cacciagione, si può mangiare anche rane, si possono mangiare anche lumache, perché pare che da quelle parti nelle Marche ci fosse questa consuetudine tradizionale di mangiare in, diciamo, in case contadine un piatto, il fosso, mescolato con rane, erbe e lumache. Ma io vi voglio parlare però di due piatti che mi hanno molto colpito di pesce. Una è una triglia fritta all'aceto con prosciutto, pecorino e fave. Bene, qui c'è una combinazione che è insolita tra il pesce e la carne, tra il pesce e un salume. Devo dire che se si va a ben guardare all'indietro è l'unico piatto di pesce interessante che si trova sull'Artusi, proprio triglia con prosciutto crudo. Ebbene, invece in questo caso Uliassi ha aggiunto pecorine e fave, quindi facendone un piatto completamente interessante e completo. Bene, vi voglio ricordare anche le canocchie, appunto un piatto a base di canocchie, che è uno dei miei pesci preferiti, appena scottate, e devo dire veramente eccellente. Poi, dulcis in fondo, un dolce che è sempre più raro da trovarsi, ma qui fatto in maniera particolare, che è la zuppa inglese. Bene, è una zuppa inglese rivista, però i sapori sono veramente quelli della zuppa inglese. Quindi Uliassi a Senigallia. Bene, dulcis in fondo, vi voglio portare a Pietraligure, dove c'è una vecchia focacceria, chiamiamolo così, che fa la farinata di Virginia è il nome, un locale che pare abbia oltre 100 anni di tempo, quindi sicuramente molto molto lontano, dove si fa ancora la farinata in maniera tradizionale, che nei pentoloni viene mescolata farina di ceci e acqua, e poi il tutto versato in grosse teglie, e quindi la cottura addirittura ancora fatta in forno a legna. Un piatto straordinario per chi ama la farinata. Quindi lo ricordo, la farinata di Virginia in quel di Pietraligure, e vi ho dato anche la suggestione della la pasta di Campofilone e del ristorante di Mauro Uliassi in quel di Senigallia. Io credo che vi ho dato tutto per poter mangiare nella prossima settimana. Tu cosa ne pensi? Guarda, sì, tra l'altro alcune cose, sono tipo la pasta di Campofilone, sono anche recuperabili facilmente dal supermercato, per cui si può già pensare di mangiare così a mezzogiorno. Ecco, magari... Ma tra l'altro devo dire ha un costo contenuto, sì. Quindi si mangia velocemente, si mangia appunto un piatto fatto con degli ingredienti davvero eccellenti, perché Enzo Rossi, che è il proprietario della Campofilone, ora produce addirittura anche grano e quindi fa farina e le uova, quindi diciamo che c'è veramente una filiera cortissima, a metro zero direi quasi. E infatti poi la qualità si sente, poi sai, te lo dice uno che è stato sempre abituato alla pasta fatta in casa di mia madre, che è da buona abruzzese, e quindi quando non ho la pasta fatta in casa devo cercare una pasta che sia il più possibile come quella fatta in casa, per cui... Brutta abitudine, caro amico mio, perché ormai non la ritrovi quasi più, quindi ti devi abituare anche a tutto il resto. È vero, grazie Davide, ci sentiamo domenica prossima. Buona domenica. Ciao. Manet in 24 minuti. Per voi biglietti per la mostra Manet Ritorno a Venezia, Palazzo Ducale, fino al 18 agosto. Ammesso che riusciate ad associare le canzoni che vi faccio ascoltare a un'opera di Manet. Io vi aiuterò come sempre il più possibile. E la canzone, prima di farla ascoltare, do il numero 800240024. La canzone è questa. E se l'amore che avevo non sa più. Come i treni a vapore, di stazione in stazione e di porta in porta e di pioggia in pioggia e di dolore in dolore, il dolore passerà. La cantante Ivano Fossati, l'interpretazione di Fiorella Mannoia, si intitola Treni a vapore, come sta raccontando Franca da Pisa. Sì, buongiorno Stefano, sono Franca, sono qui fra i fornelli. Ecco, allora, sei una persona sincera anche oggi, certo. Abbiamo parlato di nomi, oggi una persona franca. Allora, certo. Anche se credo che non c'entri assolutamente nulla l'origine del nome dalla sincerità, comunque sia, allora Franca, secondo te qual è l'opera di Manet attribuibile, associabile alla canzone che abbiamo ascoltato? Senti, mi è venuta subito in mente Alla ferrovia. È vero, Franca, quello grazie. È il titolo dell'opera e per te i biglietti per l'ingresso alla mostra. Ma ne ritorno a Venezia fino al 18 agosto a Palazzo Ducale, una bella occasione per andare in quella splendida città. Non che tu sia una brutta città, sei una bellissima città, certo, anche tu, però certo. L'Italia è fatta così. Grazie, ciao grazie Franca. Grazie tantissime, grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Gianna dalla provincia di Treviso, buongiorno Gianna. Allora per, te, allora per te cambia il quadro, però ti garantisco che è molto semplice. Anche in questo caso il titolo dell'opera è una parola sola, a parte l'articolo, è una parola sola e questa canzone sicuramente ti darà la risposta giusta. Anyway, what you gonna do about it? Song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Allora, Gianna, hai riconosciuto questa canzone? Sì, Giulietta, sì, famosa. Romeo and Juliet, Dire Straits. Allora, Romeo e Giulietta, famosi, no? Protagonisti di un'opera altrettanto conosciuta e che porta quel titolo, fra l'altro. E a te cos'è che fa venire in mente Romeo e Giulietta? Cos'è che ti fanno venire in mente? Qual è l'opera di Manet che può avere a che fare con questa coppia famosa anche per un determinato motivo, a parte il finale, il no? Balcone. Il balcone. Il balcone. Il balcone. Sì. Sì, il balcone. È proprio quello. Brava, grazie Gianna. Ciao, bene, complimenti. Grazie a te, buona domenica. E buona giornata. Grazie, ci sentiamo domenica prossima alle 10 puntuali con il riposo del guerriero per voi. Altre canzoni con altri biglietti, ma soprattutto un altro argomento che vi accompagnerà per tutta la puntata. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Benedetta Acri in assistenza, a Peter Bescapé in regia. Grazie al centralino e a voi. Buona settimana da Stefano Gallarini. Ci sentiamo domenica prossima alle 10. Oh!